Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Un giorno che un socio gli aveva dato alcune lire di mancia, Ario rientrò in fretta per metterle nel salvadanaio, come non soleva fare da tempo. Guardò sulla mensola e gli sembrò di travedere. Il salvadanaio non c'era più. Ne trovò i cocci più tardi nel cassetto del comodino di sua madre, buttati lì assieme a pochi spiccioli. Il resto scomparso. La rabbia e l'indignazione che ne provò traboccarono subito contro Eneo. Lo aveva veduto il giorno innanzi comparire sulla zattera, l'accappatoio sotto il braccio, coi capelli insolitamente ondulati e lucenti. Sdraiatosi al sole, mentre Berto gli preparava lo skiff, aveva estratto da una tasca dell'accappatoio, con un gesto di noncuranza, un pacchetto di sigarette dall'orlo d'oro. Ario adesso capiva tutto. E pensare quanto lentamente aveva raccolto quei soldi dall'infanzia in su. Gli venivano quasi le lacrime dalla rabbia. Poi capì che quella scoperta, di cui non avrebbe fatto parola sua madre, lo liberava per sempre dall'impegno di mettere le mance nel salvadanaio, e si sentì, in compenso di ciò che perdeva, sollevato e padrone di sé. Si sarebbe comprato, con le nuove mance, una rivoltella quasi vera, una scaccia cani, e sarebbe andato al parco dei divertimenti. Con Berto in quel tempo si incontrava poco, e anche di ciò era contento. Temeva che egli avesse già capito di sua madre e di Eneo e gli facesse qualche allusione, o peggio, qualche domanda. Stava solo, un po' sul pontone, da cui sua madre si assentava sempre più spesso, e un po', nelle ore libere, in giro per i moli e per le rive, tra i chioggiotti, i facchini e i rivenditori e i fotografi ambulanti, o davanti ai baracconi del parco, ove gli piaceva esercitarsi al tiro a segno. Berto, d'altra parte, non veniva più in cerca di lui. Da qualche settimana avevano persino smesso di remare insieme. Berto, a quanto egli aveva potuto capire, aveva cominciato ad allenarsi di mattino presto, all'insaputa di tutti, con uno skiff, quasi già volesse emulare Eneo. Da qualche sua frase, sebbene si mantenesse chiuso e sospettoso, riuscì a comprendere che egli sperava venisse istituito un campionato della categoria ragazzi. Si avvicinava all'epoca delle grandi regate, che dovevano aver luogo a Napoli, e l'attenzione di tutti, nonostante certi scherni, tornava a puntarsi su Eneo. Egli si sarebbe finalmente misurato col campione senior, che da 5 anni teneva il titolo nazionale assoluto, e l'aspettativa, dicevano, stava diventando ansiosa in tutti i centri remieri della penisola e persino, aggiungeva Berto, in quelli esteri, in vista delle prossime Olimpiadi. «Vedrete», egli andava dicendo, «nessuno lo ferma. Tra un mese sarà campione nazionale assoluto, tra un anno campione del mondo». Vi ricordate con che balzo, superando tutti alla prima regata, è diventato campione junior? E girava per la Virtus, occupato, infervorato del suo idolo, senza badare a nessuno. Meno che mai, in quei giorni, egli badava ad Ario. Era molto se si accorgeva di Lidia, che girava per il pontone in un nuovo costume da bagno, di stoffa bianca a grandi fiori rosa e con le unghie laccate. Ario, d'altro canto, se ne infischiava di Berto, di lui e di tutti lì nel mandracchio. Serio, quasi severo, amava seguire i propri pensieri ed era meglio se lo lasciavano in pace, meglio ancora se non lo guardavano neanche. Non gli importava nemmeno di remare, diventare canottiere. E poi, no, non gli importava più. guardava talvolta il mare, verso il largo, oltre l'imboccatura del porto, e le navi in arrivo, di cui subito cercava, con uno strano orgasmo, di distinguere la bandiera. Ecco, era questo che voleva. Imbarcarsi. Partire. E il pensiero gli tornava come un tempo a suo padre. Partire. Non tornare mai più. Gli sembrava che laggiù, oltre l'oceano, lo attendesse da sempre suo padre. Lì un giorno, in una città sterminata dalle case alte sino al cielo, si sarebbero incontrati. Pensava al mare e a suo padre, ma non con l'impeto avventuroso e felice di un tempo. C'era adesso, nel suo sogno di partire, qualcosa di profondo e di amaro. E gli pareva che quella stessa impressione dovesse averla provata tanti anni addietro, suo padre. Col pretesto d'accompagnare i canottieri alle regate di San Francisco, egli era partito, Ario lo sapeva, lo sentiva in sé, non per cercare in America una vita più facile, ma proprio per andar via, per fuggire qualche cosa, per liberarsi e non tornare mai più. Anche lui, presto, il cuore a quel solo pensiero gli dava un balzo. Si sarebbe imbarcato, sarebbe fuggito, nascosto in una stiva o in un carbonile o fra le macchine, non importava dove. Bastava andar via, in America, e custodire intanto i propri segreti. Berto, che da qualche giorno lo sogguardava da lontano, quasi avesse da dirgli qualcosa ma non si decidesse, una sera, poco prima di cena, quando gli ultimi canottieri ebbero varcato la passerella, gli fece cenno dal ballatoio di raggiungerlo. Ario si sentì di fuoco, poi pallido. «Ci siamo», pensò. Era da aspettarselo. Il cuore gli faceva male contro le coste e provava quasi una difficoltà di respiro. Non andare? No, poteva essere peggio. Ma cosa avrebbe risposto a Berto? Doveva negare e offendersi, ribellarsi, fingendo di ignorare tutto? O tacere, mostrando che sapeva? Si diresse verso la Virtus come in una nebbia, senza più sapere che cosa facesse. E nel posare i piedi sulla passerella, al momento di salire sul pontone ove Berto lo attendeva, sempre ritto, fermo sul ballatoio, provò la stessa sensazione, desolata, di chi imbocchi l'unica strada che ha dinanzi a sé, sapendo di non poter più tornare indietro. «Dimmi», si rivolse a Berto con la gola chiusa, appena l'ebbe raggiunto. E fu come se gli offrisse di vibrargli una mazzata in mezzo al capo. «Eneo, la mamma», si ripeteva, «ora mi domanderà se so e racconterà». «Aspetta», rispose Berto, e dopo essersi guardato attorno, si diresse verso l'uscio che si apriva sul ballatoio e gli fece cenno di seguirlo. Ario si mosse. «Ho da dirti una cosa», si volse Berto mentre varcava la soglia, «che non avresti mai immaginata». E lo sogguardò con gli occhi lucidi. «Che cosa?» riuscì a vincersi Ario. Infilato l'andito semioscuro che portava alla piazzola precedente la doccia, Berto si guardò un'altra volta attorno, portò il dito alla bocca e sussurrò «Aspetta!» e continuò a inoltrarsi. Ario sentì un impulso di ribellione e si arrestò. «Beh, dimmela!» gridò. Berto si voltò di scatto, con gli occhi fuori dal capo. «Shh!» fece, e poi «Se non viene avanti, ma sentirai, sentirai!» «So già tutto!» fu per urlare Ario, «e non me ne importa niente, lasciami!» «Ora te lo dirò!» sussurrava Berto, proseguendo. «Voglio vedere la tua faccia quando lo saprai, io stesso!» Una ventata violenta scosse Ario e lo annebbiò. Lo so, non me ne importa niente, hai capito? Non me ne importa niente, niente!» si tratteneva dall'urlare. Aveva il capo in fiamme e la gola chiusa. «Perché non lo pesto?» si chiese. «Perché non gli salto addosso e non gli rompo il muso, brutto, sporco d'un vigliacco com'è?» Io stesso, continuava Berto con un timbro di voce strano, non lo avrei mai sospettato. E si voltò di nuovo a guardarlo. Erano giunti nella piazzola, ove era quasi buio. Berto si fermò e poggiò le spalle contro un barile d'acqua che veniva tenuto lì per sciacquare a secchiate l'assito della rimessa. Nell'oscurità si distinguevano soltanto i suoi occhi. Egli tacque qualche istante e quegli occhi parvero a Dario più lucidi che mai. «Ti pare?» cominciò poi e la voce gli suonò grave e anche calda. «Che Lidia mi rassomigli?» «Che modo di fare lo stupido!» si sorprese Ario. «Se deve dirmelo!» «Ma sì!» rispose. «No!» si corresse subito. «Non proprio molto, ma un poco sì!» «Ecco, pare anche a te!» «Eppure», fece Berto. «Che finga soltanto per cominciare», sorrise Ario. «Eppure che cosa?» gli domandò e tentò di ridere. «Forse Eneo ti diceva...» «Ma che? Eneo non c'entra», lo interruppe Berto. E tacque di nuovo, guardandolo in quel modo. Ario distolse gli occhi e in quella udì. «Si tratta di lei, di Lidia. È lei che me l'ha detto». «Ma cosa ti ha detto?» «Che non è mia sorella!» Ario lo guardò senza dir parola, quasi tardasse a capire. «Che non è sua sorella!» Era questo che Berto voleva dirgli? Si sentiva trasollevato e deluso e stentava a raccogliere i pensieri. Scrutò Berto ancora, con sospetto. Lo vide pendere dal suo labbro, con due occhi lucidi da parere esaltati. Gli aveva domandato qualcosa? «Eh?» fece. «Ma tu?» lo guardava Berto con quegli occhi. «Lo sapevi forse già?» «No, non ha scoperto nulla. Non deve sapere ancora niente», si rassicurò. Poi annuì. «Lo sapevi?» strabigliò Berto. «Ma come? Forse tua madre?» «Eh? Che dici?» sussultò Ario. «Sì, sì», tornò distinto ad annuire. «Ah!» fece Berto. «Ma allora lo sanno tutti, e tu non me l'hai mai detto!» «Non è sua sorella, Lidia non è sua sorella», si ripeteva Ario come uscendo da un torpore, mentre ripercorrevano l'andito per tornare sul ballatoio. A un tratto si fermò e afferrò Berto al braccio. «Ma che vai dicendo?» gridò. «Cosa ti è venuto in mente?» «Nulla, solo quello che mi ha detto lei, che non è mia sorella!» «Ma cosa vuoi dire?» «Quello che t'ho detto!» «Non è figlia di mio padre. La mamma l'ha avuto da un altro. Ma tu?» «Con un altro?» Ario si sentì sollevare e portar via da un turbine. «Sei pazzo!» gridò. E stringendolo sempre al braccio, lo scosse due o tre volte. «Sei pazzo! Ma cosa dici? Ma è vero! E tu?» Fu allora che Ario lo percosse con due schiaffi al viso. Dopo che ebbero lottato e si furono riconciliati, Berto gli raccontò tutto. Lidia era figlia, egli disse, del primo marito di sua madre. Poi quello era morto e sua madre s'era risposata. «Ma tu?» tornò a domandargli. «Non mi avevi detto che lo sapevi?» «T'ho detto questo. Io?» «Ma sì, poco fa!» Erano tornati, quasi senza accorgersi, nel buio della piazzola. «E sai cosa mi ha detto Lidia?» gli domandò Berto, appena fu al posto di prima, con le spalle contro il barile. «Cosa?» «Che mio padre quella notte non aveva il diritto di esaminarla, perché lei non è sua figlia. E ha detto che ci guardiamo bene dal farglielo di nuovo, che non lo tollererà mai più». «Ma come?» gli domandò Ario col respiro in gola. «Parlate ancora di queste cose?» «Ne abbiamo parlato giorni fa. È stata lei a cominciare. Ed è per questo che mi ha raccontato tutto. Io prima non sapevo che la mamma era vedova e che Lidia non era mia sorella vera». «Sarà poi così?» continuava a domandarsi Ario, tornando sul pontone. «O era tutta una fantasia di Berto, di quel pazzo esaltato che ogni settimana aveva qualcosa di incredibile da raccontargli? E se non se l'era pensata lui... Non poteva darsi che fosse tutta un'invenzione di Lidia». Si promise di venirne a capo, una volta per tutte. Giorni dopo, in quello stesso anditino presso la doccia, si incontrò inaspettatamente con Eneo. Si fissarono qualche istante e Ario, per un impulso improvviso, fu sul punto di domandargli se poteva essere vero ciò che Berto gli aveva raccontato di Lidia. Riuscì tuttavia a trattenersi, colpito dal modo come Eneo lo osservò. Con le pupille che sembravano tra le palpebre socchiuse due righe di luce, lo fissò sino in fondo agli occhi e poi gli abbracciò in uno sguardo rapido tutta la persona. E Ario, che era in mutandine da bagno, si sentì turbare. Eneo, prima d'allora, all'aperto, non lo aveva mai guardato in quel modo, e lo strano fu che, pur fissandolo così intimamente, egli era passato innanzi, alto il capo sulla propria nudità atletica, senza neanche salutarlo. Quell'incontro gli lasciò un'impressione inquietante. Si riprese quando si ritrovò all'aria e al sole, sulla zattera, fra i canottieri, e fu contento di non aver fermato Eneo. Tanto, si diceva, che cosa può saperne lui del padre di Lidia? Trovò un giorno all'improvviso, e lui stesso non se l'aspettava, il coraggio di parlarne a sua madre. «Vedova quella lì!» si piantò a gambe aperte la donna in mezzo alla cucina e rise con la sua bocca grande. «Vacca era, altro che vedova, anche se oggi fa la santa. E aveva già avuto Lidia, chissà con chi, quando ha pescato quel monaco e l'ha sposata». Dunque era vero. Ario ne provò, ora che glielo diceva sua madre, quasi più impressione di quando gliel'aveva rivelato Berto. Era vero, vero, tutto ciò che aveva saputo da lui e anche di più, anche ciò che Berto ignorava. Aveva già avuto Lidia chissà con chi. Riudiva di continuo quelle parole, non riusciva più a far tacere la voce che gliele ripeteva. Più trascorrevano i giorni e più quel fatto giganteggiava in lui, specialmente la notte. Tuttavia, a poco, cominciò a sentirsi proprio per quella scoperta più tranquillo, quasi sollevato. Si ricordava di quel giorno lontano della sua infanzia, quando Lidia lo aveva chiamato sulla Virtus e lì, nel camerino oscuro, gli aveva rivelato che aveva un padre anche lui e che quel padre era scappato in America. «Se mio padre è scappato, lei non sa di chi sia figlia». Erano pari. Adesso, dopo tanti anni, si ristabiliva fra loro due un equilibrio. E anche con Berto, dopo ciò che era venuto a sapere di sua madre, si sentiva finalmente pari, sebbene persistesse in lui, malgrado tutto, una vergogna oscura e quasi un timore. Erano pari. Egli non cessava di riflettere di giorno e di notte a quanto era venuto a sapere. Ogni cosa di Lidia e di Berto e degli anni che avevano trascorso assieme gli appariva tutto a un tratto in una luce diversa. Pensare a loro e alla loro madre, quella donna che aveva avuto Lidia non si sapeva da chi, scoprire tutta quella vita nascosta, era per lui come guardare irresistibilmente entro un'acqua che più la si fissa e più sembra profonda, sino a mettere un brivido. E in certi momenti, quando, riscuotendosi, si ritraeva da quell'abisso, stentava a persuadersi che la storia di Lidia e tutto ciò che gli era stato raccontato di lei fosse vero. No, non poteva credere. Era soltanto un incubo, un'invenzione di sua madre e di Berto.